Radio Wombat 8 Hertz. E ciao ascoltatori di questa strabiliante radio che è Radio Wombat. Benvenuti a questa puntata di 8 Hertz. E stasera in realtà non c'è un tema vero e proprio, ma in realtà è tutto quello che un po' ho ascoltato in questi giorni, che ho scovato e trovato in negozi di dischi o banchini e persone ritrovate che appunto hanno a che fare con la musica e con il quale ho avuto a che fare, amici e musicisti, e quindi appunto ci sono un po' tutti questi giochi e incastri sonori e anche umani. La prima cosa che vi metto è un CD che ho trovato inaspettatamente a Bologna, in un bel negozio, e tutto mi sarei immaginato tranne di trovare un disco dei Co, COH, che non sono i Coil, anche se hanno avuto rapporti stretti. E Co in realtà è il nome di Ivan Pavlov, che è un compositore sperimentatore russo dei nostri giorni. Avevo trovato questo disco che si chiama Vol, e a quanto pare uno anche dei più ardui e estremi, perché è basato molto sul silenzio e sui suoni che nascono all'interno di esso, avendo variazioni molto soffici come progressioni più che altro. E è un disco che mi sembra che sia anche catartico, volendo, e meditativo. E metto un lungo pezzo, non mi ricordo qual è la traccia, forse mi pare sia la traccia 2 di questo disco, che si chiama appunto Volle, il pezzo si chiama Lewis, e tra l'altro è della Edition Mego, che è una etichetta abbastanza figa, per cui uscire per loro è bello, insomma. E anche appunto c'è la materia che si crea all'interno del silenzio. Ascoltiamocelo, lui è Co, ovvero Ivan Pavlov. Thank you. Thank you. E pochi giorni fa sono stato qua a Firenze a vedere un concerto di Massimo Pupillo e Stefano Pilia. Pupillo è il bassista, famoso come bassista degli Zoo, ma anche ha avuto a che fare con un sacco di gente tosta come Kaspar Brodsman, Oreman Barkley e Chris Corzano, che ne parleremo subito dopo. E tanti altri, ovviamente FM Einet, il percussionista che io chiamo, che era quello più bestia degli Stories and the Neubauten. E Stefano Pilia invece è, di solito suona la chitarra anche nei Massimo Volume, negli After Hour, negli Inzaire e poi non so bene, e Settlefish, ecco, ha suonato Settlefish. Insomma, vedendo il bel concerto, che faceva un'elettronica sperimentale, poi parlandoci un po', nel banchino aveva una delle collaborazioni, per quanto mi riguarda, che ha fatto lui più importanti, ovvero con Tidepool Sandra, che era il terzo o quarto elemento dei Coil aggiuntivo rispetto alla formazione base. Che tra l'altro ha l'archivio storico dei synth che usavano i Coil. Insomma, quindi ho preso questo disco, che è a nome di Uruk, che sarebbe, per quanto ho trovato, una città, un'antica città sumera. Non so se abbia poi qualche altro senso. Il disco si chiama I Leave a Silver Trail Through Blackness, è un'unica traccia di quasi 40 minuti. Insomma, è molto importante che una persona italiana abbia avuto a che fare con uno dei membri di un gruppo così importante per me, ma non solo, anche per tante altre persone. Il disco è molto bello e è stata una traccia unica, vi metto un estratto, ovvero lo faccio partire all'inizio e poi prima o poi lo toglierò, non lo metto tutto, ecco. Buon ascolto Uruk, ovvero Tidepool Sandra. Oddio, ho perso il filo. E Massimo Pupillo degli Zoo. Buon ascolto. Thank you. Lo so, vi piacerebbe sentirlo tutto, ma non si può. E quindi, vabbè, vi ho fatto sentire questa parte, non era neanche cortissima, sono tipo 12 minuti della lunga traccia di Uruk, ovvero Massimo Pupillo e Taipol Sandra insieme. E, tra l'altro, mi sono dimenticato prima, ha fatto anche un altro progetto bello tosto, Massimo, insieme a Gordon Sharp dei Syndtall, che si chiama Becoming Animal. Dategli un ascolto se vi interessano, anche Sildy Talk. E poi ho fatto un disco con Chris Corzano, che è un batterista, che si chiama Via Combusta. Anche quello, purtroppo ho sentito solo degli estratti, mi pare molto bello, poi un giorno me lo accaparrerò. E insomma, Chris Corzano è venuto a Firenze settimana scorsa neanche, per un concerto di solo batteria, perché lui è un batterista americano, praticamente un alieno della batteria, suona con i peggio trabiccoli, una batteria preparata alla modello pianoforte di John Cage, insomma, e fa roba che ha molto a che fare col free jazz e free tutto praticamente, cioè il vero free. E ha suonato veramente con tantissime persone, dalle più famose come Bjork o Thurston Moore dei Sonic Youth, personaggi importantissimi outsider come Gedalia Tazartes, che appunto abbiamo ascoltato qui sotto Hertz, e tanti dischi li ha fatti anche con Bill Orcutt, che è un chitarrista sempre americano. E proprio un pezzo live di loro due è quello che vi metterò, è tratto da Various Live del 2015. Bill Orcutt era veramente free jazz, di quello bello rumorista e super estremo, come anche appunto Chris Corzano, che saluto. E ve lo faccio ascoltare, ma voi, se guardate anche nel sito di Chris o su Discogs, veramente trovate fiumi di album fatti e collaborazioni, sia album solisti che collaborazioni con tantissime persone, anche e soprattutto dal vivo, dove insomma questo tipo di attitudine trova il suo sbocco, forse unico e migliore, insomma. Quindi Chris Corzano e Bill Orcutt, la registrazione è ruvidissima, ma siamo abituati ad ascoltare registrazioni così sporche, perché Bill Orcutt già da tantissimo, appunto col suo gruppo, col gruppo che aveva gli Harry Pussy, già produceva album che suonavano così. Questo era Chris Corsano insieme a Bill Arcat, era quasi tutto il lato A di questo disco. E, ha fatto robe anche che si sentono meglio, comunque già potete capire che insomma è roba parecchio caotica e ardua da suonare. E per quanto vi possa sembrare strano, non così arduo anche da ascoltare, perché diventa quasi musica meditativa alla fine. Continuando a navigare un po' col cervello, col pensiero nel mondo della musica estrema, in ogni suo aspetto, in ogni suo genere, un'altra persona che ci tenevo a farvi ascoltare è Moon Mother. Lei è Kamaya Ayewa di Filadelfia. Ultimamente ha avuto un po' di, come si può dire, un po' di risonanza per l'ultimo disco che ha fatto, che si chiama Fetish Bones, dell'anno scorso. E lei si definisce anche poetessa, oltre a musicista, che veramente sperimenta dalla power electronics ai collage, ai cut-up sonori. E è anche molto politicizzata, appunto proprio sulla questione degli afroamericani. Lei si descrive come afrofuturista, l'afrofuturismo è una cosa creata per anche riformulare il concetto della vita degli afroamericani, dandogli una posizione un po' più centrale nel mondo. Fa parte anche di un collettivo che si chiama Black Quantum Futurism, che è tanto bello il nome, quindi va anche sulla quantistica, e appunto ha aperto un centro a Filadelfia dove si possono tenere workshop e anche scambi artistici con chi vuole star dietro all'idea o chi si vuole mettere in gioco, insomma. Quindi i testi son molto sanguigni, diciamo, molto tosti. Ho trovato il tutto assolutamente personale e abbastanza veramente strong. Quindi vi faccio sentire un pezzo, appunto tratto dall'ultimo disco che si chiama Fetish Bones. Il pezzo si chiama Tell Me About It. Ci potete trovare anche delle sonorità. Vabbè, non vi dico nulla, vai. While we gotta die this way, we drunk as fuck, but living in king. Everything ain't okay, everything ain't okay, everything ain't okay. Wake up and drink, five times a day, night. Why we gotta die this way? I'm drunk as fuck with it. Everything ain't okay. Everything ain't okay. Everything ain't okay. Five times a day. Life. Why we gotta be this way? Why we gotta die this way? Took my love away. Took my love away. Drunk with a loaded AK. Drunk with a loaded AK. Drunk with a loaded AK. Drunk with a loaded AK. Drunk with a loaded AK. Everything ain't okay. Everything ain't okay. Everything ain't okay. Wake up and work five times a day. Why gotta be this way? Why we gotta die this way? Drunk as fuck with a loaded AK. Everything ain't okay. Everything ain't okay. Ain't okay. Ain't okay. Ain't okay. Yeah. insomma, questo e tanti altri pezzi abbastanza corti ma concisissimi e cattivi e proprio di rabbia e di cuore allo stesso tempo, potete ascoltarli appunto nel disco che ha fatto Fetish Bone. Ha fatti anche tanti ne ha fatti altri due o tre se non sbaglio, e leggetevi anche qualche intervista o ascoltatevi qualche intervista per capire un po' il soggetto che vorremmo aspettare anche a Firenze, ecco, chi lo sa. E continuiamo un po' con la black music, parlando un'altra volta di Dalek, che forse è quello che ho messo insieme ai Coil più spesso qui su 8 Hertz, perché poco tempo fa è uscito il disco suo nuovo, che anche quello non l'avevo ancora trovato, poi l'ho trovato qualche giorno fa e quindi l'ho ascoltato un po'. E è bello come al solito, è sempre per l'Hypercap Recordings, come quasi tutto quello che ha fatto di LP, Hypercap, non so bene come si dica. Il disco si chiama Endangered Philosophies, appunto del 2017. E il pezzo è l'ultimo a chiusura dell'album, molto malinconico, come un po' l'ultima fase sua. Si chiama Numb. Tra l'altro nel testo la cosa che salta un po' all'udito è una frase che si trova anche all'interno del disco, che dice che dice this is gonna change me, this is gonna change you, this has gotta change. Per cui sembra una roba semplicissima ma veramente che arriva. Quindi grazie ancora ad Alec per le vostre genialate. Numb. E, la cosa strana, curiosa, è che la puntata scorsa l'abbiamo fatta insieme a THX, che ha messo roba anche di Martina. Scusate, di Kevin Martin e Justin Broderick, e guarda caso, proprio nei giorni in cui sono andato a cercare qualche disco, ho trovato roba loro che non avevo, e quindi ora ve la assorbite tutta. E, il primo che vi metto è appunto il progetto The Bug di Kevin Martin, ovvero il formatore del gruppo degli anni 90, Simon God, e poi più tardi Techno Animal e Zonal con Justin Broderick. Poi ne ha fatte tante altre di cose, The Curse of the Golden Vampire, e è sempre stato molto sul lato dance della cosa, filtrato però anche da sperimentazioni che prendono parecchio dall'hip hop, dal rap, sì, vabbè, la stessa cosa, cioè non proprio, comunque dal reggae maffi, insomma da ogni genere che viene dall'afro. E The Bug appunto è quello in cui questa cosa si sente di più. Il disco che ho trovato appunto si chiama Angels and Demons, e ha di un paio d'anni fa, e ha dentro un sacco di collaborazioni, e anche i Death Grips o Gonja Sufi, insomma tanti collaboratori. Ho scelto un pezzo che è insieme a Warrior Queen, che proprio ha fatto anche un disco proprio completo insieme a lui, e si chiama Fuck You il pezzo. E ovviamente sono quelle cose che comunque hanno sempre suoni metallici, che sono la garanzia di The Bug di Kevin Martin. Ho letto in qualche intervista che i suoi live sono a un volume veramente spaventoso e super potente, e non riesco a crederci, anzi, perché insomma già sentire dai suoni che usa veramente spaccano. Quindi è The Bug, Fuck You insieme a Warrior Queen. Family clad, just saw the queen tan me love. Hardcore, fuck me love, change position. Ruffy skinny toad, wide down, wine bandage. And you see, when the cocky stick, when the cocky turn, me position pan it and all back, we me turn. Some boy, them no know them all it talk up. And when me put them, the boy, me just grass them up. Fuck you, a lucky cocky, you a carry. Fuck you already, I go done. Sit me man pan a cheer and ride the cocky like me just don't care. Sink the John deep and start fi jog here. Hold me body just tight, me all a root out him ear. He make the pussy blister, boy, I make the pussy tear. Yo, that's real fucking man, that's real fuck scare. That's the way it should be, you know, all through the ear. A boy can't fuck me, tell him loud and clear. Fuck you, all in the cocky, you a carry. Fuck you already, and you don't know me, sorry, yo. Fuck you, you just. fuck me, say me fuck ignorant. Any boy me fuck me, just left me fuck stamp. Boy ball, boy scream, boy cocky root cramp. Boy run, splurt, left clothes and underpants. Boy fuck me, if you a fuck me, I stop bow bow like you want cap me. Who you a play with, you think me a Barbie? Get really a fool, I'm crazy. E insieme a The Bug ho trovato il disco di J.K. Flash, Suicide Estate, che appunto J.K. Flash è il nome di Justin K. Broderick quando fa techno, dub, EBM e derivati. E ho letto una bella intervista su Daily Noise, che tra l'altro è un sito parecchio utile e fatto bene. Questa intervista proprio a lui, a Justin Broderick, fatta da Fabrizio Garau, proprio su J.K. Flash, su questo disco. E praticamente la cosa curiosa è che a Fabrizio questo disco rimandava a Crash di Ballard. E Justin dice che effettivamente Crash evoca parecchio la vita all'interno di Birmingham, perché lui è di Birmingham, e i nomi che sono stati dati ai titoli dei brani di quest'album sono tutti nomi di edifici, di palazzoni, di towers, come direbbe Ballard. Infatti tanti hanno Towers come nome, oltre a proprio al nome che hanno dato all'edificio. E sua madre, e quindi anche lui da giovane, abitava proprio in quei bestioni assurdi, e proprio davanti a loro c'era un blocco che si chiama Suicide Block, dove la gente proprio andava lì per suicidarsi, perché questa era un po' la vita a Birmingham negli anni Ottanta. E tra l'altro appunto il rimando con Kevin Martin, col quale ci collabora da tantissimo, dagli anni Ottanta, è che è stato il primo a credere nei Godflesh, il primo che gli ha fatto fare un concerto in un posto malfamato, e l'importanza che ha avuto proprio a Birmingham, ma in Inghilterra, della black music come il reggae e il dub durante gli anni 70 e 80, come sviluppo di un certo tipo di sottocultura estrema musicale. Adesso ci ascoltiamo un pezzo proprio tratto da Suicide Estate, che si chiama Squalene, è un new mix e è una bomba, come tutto quello che fanno loro, insomma tutto quel giro lì inglese. bella questa questa techno bella scura, quasi industriale, veramente suburbana, come le cose di tutto quel gruppo insieme a Scorn incluso e tra i primi, ecco, l'ho detto. E siamo arrivati alla fine, vi ricordo di seguirci in qualche modo sia sul sito che conoscete, altrimenti non ci state ascoltando, non ci ascoltereste. Scriveteci a postawombat@insiberia.net, date un occhio al Facebook e al Twitter, però diciamo che il sito è quello che ha maggiori informazioni. All'interno potete trovare anche tutto il palinsesto, oltre alle dirette ci sono le repliche delle dirette, e poi anche un paio di giorni dopo o un giorno dopo troverete anche il podcast di tutti i programmi che via via vengono fatti giornalmente, quindi potete trovare un vero e proprio archivio ormai da un anno e mezzo a questa parte di tutte le puntate dei vari format, diciamo, per usare una parola un po' fighetta, e insomma tutto. Quindi se vi piace datevi un occhio, e siamo arrivati alla fine con appunto un altro disco che non avevo e che ho trovato, e quindi l'ho preso, l'avevo ascoltato in altre forme, e loro sono i Panasonic, che in realtà erano i Panasonic dal 93 al 98. Poi quando la Panasonic li ha portati in causa, ovviamente hanno perso, ha vinto la Panasonic perché usavano lo stesso nome, e da quel momento si chiamano Panasonic, però il primo disco si chiamava A. Ve l'avevo già detto, però mi sembra una cosa veramente buffa da fare. Loro sono un gruppo finlandese, un duo finlandese, che era o non esistono più perché Mika Vainio è morto, e quindi è rimasto solo il Po Väisänen, che anche lui ha suonato a Firenze un mesetto fa, che è stato anche un bel live insieme a un chitarrista tedesco del quale ora mi sfugge il nome. E insomma il disco appunto è proprio A, il primo come Panasonic, dunque erano anche un pochino arrabbiati, e nel disco un po' si sente, ma è quasi un come se fosse un live come concetto, parte un pochino più frenato e finisce sempre più carico, fino ad arrivare proprio a quest'ultimo pezzo che si chiama Voima, e ora ve lo faccio ascoltare tutto. E noi ci sentiamo la settimana prossima per un'altra nuova fantascientifica puntata, chissà di cosa parleremo. Grazie di averci ascoltato, aver ascoltato Otto Hertz, ma soprattutto Radio Wombat, la radio cittadina e basta, insomma. Sì, a volte mi mancano i termini, sono stanco. Buonanotte, poi ascoltando sta roba proprio ti verrebbe voglia di non parlare e farvela ascoltare e basta, senza nessun tipo di discorso. Buonanotte, alla prossima 8 Hertz.